Anche stamattina, bel bel, ho sondato la vacciona e poso un bel caffè. E prima d'andare fuori, so cosa godo a fare. A gheda da quel fiore, a me carga la pizza. Bella mattina, c'è un po' di brezza, sono un po' più contento e anche buon umore, ma sono un po' indeciso se andare peggio in bicicletta. In tutti i casi mi trovo una giacca. Non basta fare di passo, un semaforo verde e rosso. Un lucchi sta a sinistra e la moto sta a destra. Non perda questa mossa, è perché piacesse. Che boa che pozzo, che dà la precedenza. Allora senza di, per rilassiamo un po'. A vaga te di passo, dritto in piazza d'on. Ma invece d'una fiora che giri in San Marche, am son cate un pisson, calma cagè. Che era un angelo, se da gruccia, a zeta di du, che perdevo mite. Da porta a Burgot, fai in fondo a Stralvè, a Yenki Maduno, non per sei pare arancion. Eter che progresso, dal dedinco, su un drescavest la fossa, proprio con nos man. Me tutti de che passa, son sincer, a voi niente buon, per i nostri gai. Spesso appena i soldi e al frutto che quasi pezzo che bonda fa un mistero i veri anfetti di la orda su cata sa te bon te un breve radur e l'ora la sera fu qualche riflessione invece da guardare sta clucca da trasmissione. E magari capirò, quasi costruito, che la vita le vera è fatta d'amore. E magari capirò, quasi costruito, che la vita le vera è fatta d'amore.